posti qui a macerare, macerie di mani di lavoro, operare, operati, polmoniti, Covid-19 aggrediti. Oro di petrolio come orologio sincronico, battito di un debito insoluto, mani pregano il vuoto di una fredda nazione. Italia svegliati, reazione, noi imprigionati in case detenzione, cassa integrazione contro la nostra volontà, cassa integrazione, lavoro che manca, dell'amore rimane squallore di un'autoiaculazione. Di mancato amore, isolamento, isolato, scrivo, rifiuto, come ripartiremo ora che tutto è distrutto, progetto di un farabutto, contate monete, conte MES, i risparmi tolti di una vita a chi si è fatto il culo, mentre l'orologio di petrolio corre fottuto sopra un filo di lama di verità tolta. Ora stop e basta, ma non basta, basta paga in ferma, ora ferma, manco per taluni un piatto di pasta, mentre i paesi di terzo mondo un cent al giorno, sopravvivenza, niente garanzia per la vita tolta da manovrata cospirazione, UFO verranno in rivolta, Milano raggio di morte, stai attenta, di Tesla, attenta, capitali sotto il gioco di uno scudo di fuoco e armamenti, sì, fantascienza, ma state attenti al controllo, tutti da politici disattenti, controllati con una pistola alla nuca, illuminati, ora di pensioni, noi astenti, ma attenti che i popoli non si metteranno a stomaco vuoto sugli attenti, attenti, attentati, attenti, strade scarnificate, supermercati predati, futuri apocalittici, dove gli stipendi, gli stipendiati arretrati, attentato, attentati alla vita. Da che parte stiamo appuntato? Svegliati soldato!